Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Esattamente 50 anni fa, era il gennaio del 1967, anzi per l'esattezza il 5 gennaio del 1967. Allora, come oggi, si aspettava l'inizio del Festival di Sanremo, che sarebbe appunto iniziato il 26 gennaio, funestato dalla terribile notizia del suicidio di Luigi Tenco, il grande cantautore escluso dalla finale con la sua Ciao Amore Ciao, interpretata da Dalida, che era pure la sua compagna. In un mondo di luci, sentirsi nessuno. Ebbene, pochi giorni prima, proprio il 5 gennaio del 1967, il mondo dello sport, e nello specifico dello sci alpino, aveva vissuto una piccola grande rivoluzione. La stagione sciistica 1967 può identificarsi in un solo specialista, il francese Jean-Claude Killy, autentico dominatore in campo mondiale e che rivediamo durante il concorso a Mégère. Killy taglia il traguardo. 12 concorrenti hanno terminato la prova dinanzi a lui e il tempo migliore è quello dello svizzero Rohr. Momenti di attesa mentre si susseguono le discese. Ma ecco l'annuncio del tempo di Killy, 2 primi, 13 secondi, 73 centesimi. Killy ha vinto ancora. È la sua terza vittoria di quest'anno in discesa libera. È l'ottava vittoria consecutiva. Proprio quel 5 gennaio del 1967, infatti, con lo slalom speciale di Berchtesgaden in Germania, prendeva il via la Coppa del Mondo, proprio quella manifestazione che lo scorso 5 gennaio ha celebrato il suo mezzo secolo di vita con lo slalom di Zagabria vinto dal nostro Manfred Mörg. E a proposito, vi annuncio già una sorpresa nella seconda parte della puntata. Ma torniamo a Berchtesgaden, dove vinse l'austriaco Heini Messner e al quinto posto, staccato di un secondo e 27 centesimi, si classificò proprio un italiano che oggi abbiamo l'onore di avere ospite. Carlo Senoner, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera. Signor Senoner, come nacque quella Coppa del Mondo? Se non sbaglio, come spesso accade, ci ha messo lo zampino un giornalista. Senz'altro, era cominciata, diciamo, la Coppa del Mondo 1967. 66, io mi ricordo ancora Portillo, campionati del mondo, so che c'era il giornalista Serge Lang, che era in aria, che voleva iniziare con la Coppa del Mondo 1967. Senza giornalisti come diventa famoso lo sport? Senza di loro non si va avanti. Beh, è troppo buono, Carlo. Magari la pensassero tutti così. Scherzi a parte. Lei arrivò a quella Coppa da campione del mondo, avendo vinto il titolo in slalom speciale proprio a Portillo, in Cile, l'anno precedente. Ecco, che tipo di sciatore era lei, signor Senoner? Sì, io sono veramente nato distesista, perché avevo già incominciato, pensi un po' che avevo incominciato col 1958 a Wengen, prima a Adelboden, poi Wengen, avevo neanche 16 anni, ero presente nelle gare che si chiamavano gare internazionali FIS, che c'era ancora l'ultimo anno di Tony Seiler. Il grande campione di Cortina. Ho potuto partecipare alla prima discesa a Wengen, che se li posso dire una cosa abbastanza simpatica, che quando a quei tempi si poteva rimanere in pista e guardare la linea dei grandi campioni, solo stando lì a guardare, passando sti campioni, mi veniva già una paura tremenda, perché li vedevi passare. Io tra di me mi dicevo: io sabato devo scendere in questa pista, ma io come faccio a scendere? Io mi viene già una fifa a vederli passare, poi dopo pensa un po' se devo scendere. Poi passava il nostro allenatore, che era Armando Nogra, che diceva: voi ragazzi, cosa fate qui? Qui non si sta fermi, bisogna scendere, se no come si fa sabato a fare la discesa? E allora pian piano a braccia larghe scendere. E così è iniziata, diciamo, la mia la mia carriera sciistica in discesa, che poi dopo da quel giorno in poi, che ero il sabato, avevo fatto una bellissima gara, ero già 33esimo e così è cominciato e sono diventato un discesista fino al 1964, che poi alle Olimpiadi di Innsbruck ho avuto un grande infortunio con le gambe rotte e allora dopo sono diventato anche discesista ma più slalomista. Ma ecco, prima della Coppa cosa c'era? Diciamo il sistema è sempre andato avanti uguale, c'era le gare, si chiamavano gare fisse e si cominciava come anche adesso ad Adelboden, Wengen, Kitzbühel, tutte le zone diciamo di montagna per la Coppa, che adesso è come la Coppa del Mondo, una volta era, si chiamavano diciamo gare fisse, diciamo aveva un altro nome, dal 67 poi era cominciato la Coppa del Mondo e prima più o meno diciamo il sistema era uguale, solo che aveva prima un altro nome, dopo ha preso il nome della classifica del Coppa del Mondo, che avevano ogni gara, prendevano dei punti, venivano sommati dei punti e alla fine chi aveva più punti vinceva la Coppa diciamo del Mondo. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. Tempi eroici dello sci, quelli che stiamo rivivendo oggi insieme a Carlo Senoner. Grande campione Carlo, tante vittorie, ma certo i rivali non mancavano e bisognava pure accettare le sconfitte, come cantavano i Rockies. Chi erano i suoi rivali più temibili? A quei tempi erano diciamo le squadre più preparate, diciamo più numerose, più forti, erano i francesi e gli austriaci. La grande battaglia era sempre tra di loro, perché loro avevano una squadra molto organizzata, la Francia, anche l'Austria, come Chili, la Croix, Periage, Offre. L'Austria aveva Schranz, aveva Zimmermann, aveva Nenik. Erano diciamo tra loro due c'era sempre il vincitore, erano loro i primi e poi già eravamo noi diciamo una marcia più indietro, le altre nazioni diciamo anche molto singolarmente atleti, non eravamo così forti come loro, loro avevano una vera squadra potente, noi eravamo una piccola squadra, c'erano dei singoli bravi, molto bravi, però non eravamo ancora diciamo a quel livello di loro, erano leggermente più organizzate diciamo nello sci alpino. Tempi eroici, dicevamo, e immagino anche per quanto riguarda organizzazione e materiali, vero? No, come materiali non eravamo messi male, eravamo abbastanza a livello di tutti gli altri, perché c'erano le solite ditte come la Kneisel, come la Kessler, come la Dynastar, la Rosignol, erano tutti attacchi come la Marca, erano tutti sempre molto presenti, molto attivi e quelli diciamo non mancavano. E basta, diciamo, i materiali erano a disposizione di noi atleti, anche se noi il servizio diciamo dello skimmer non c'era, lo skimmer lo facevamo noi stessi montare, sciolinare, preparare, era il lavoro diciamo di ogni singolo atleta, doveva prepararsi i suoi sci, i suoi attrezzi per la gara. Tra l'altro lei si ritirò giovanissimo, ad appena 25 anni, ma come mai? Io smisi così presto perché nel 64 con i miei incidenti avevo fatto una caduta in discesa libera, mi ero rotto tutte e due le gambe e pensavo di non farcela più e con tanti sacrifici nel 66 sono riuscito a vincermi una medaglia d'oro e allora mi sono detto, anzi nel 65 ho cominciato a casa, mi sono anche sposato molto presto, abbiamo fatto una pensioncina e poi ho continuato fino al 68 alle Olimpiadi, non è andata bene perché c'era un tempo vigliacco, nebbia, non si vedeva niente, ero caduto e tra mia moglie e io ho detto: hai avuto la fortuna, la capacità di vincerti una medaglia, torna a casa, cominciamo un'altra vita, adesso bisogna cominciare a lavorare. la cuccagna è finita, vieni a casa. E così ho smesso con 25. Adesso, come adesso, se penso come adesso, non avrei più smesso a 25, sarei andato avanti ancora almeno 5, 6, 7 anni, perché adesso come adesso è diventato un lavoro e si può anche guadagnare dei bei soldini. A proposito di grandi vecchi, signor Senoner, c'è Manfred Mölgg che a 34 anni sta vivendo una grande stagione nello slalom speciale. I mondiali di St. Moritz sono ormai imminenti e, ecco, possiamo sperare nella grande impresa? Ma perché no? Io penso di sì. Ultimamente lo vedo molto, molto preparato, molto in forma. Se tutto va bene fino a quel giorno, perché no? Potrebbe portarsi una bella medaglia a casa, sarebbe per lui una bella soddisfazione, perché lui, diciamo, con l'età è abbastanza avanti. Ho guardato un po' le classifiche e vedo che nello slalom lui è, diciamo, un po' uno degli atleti più anziani. Perché no? Se ha la fortuna, se ha di vincersi una medaglia, diciamo, la medaglia è la cosa più bella che c'è, quello che uno nella sua vita sportiva sogna. Allora, incrociamo le dita. Intanto, Carlo Senoner, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a lei, buonasera. Un istante di pausa, ora poi vi aspetto ancora qui, a Olimpia. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Olimpia, miti e verità dello sport. Un cuore matto, avrebbe cantato Little Tony in quell'edizione di Sanremo 1967, preceduta di pochi giorni dalla nascita ufficiale della Coppa del Mondo di Sci, il 5 gennaio di quell'anno, con lo slalom speciale di Berchtesgaden. Ebbene, a 50 anni esatti da quel giorno, a Zagabria, abbiamo sentito tutt'altra musica e davvero pure questa per cuori forti. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ancora una volta sul primo posto, Manimel. Che emozione, ragazzi, questa vittoria a Zagabria. E se ci siamo emozionati noi, figurarsi lui. Allora, Manfred Mölgg, grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera, ciao a tutti. Beh, Manfred, forse solo tu ci credevi, inizio stagione, di poter essere di nuovo protagonista del Circo Bianco. Tu, che pure in carriera, oltre alle prove in Coppa del Mondo, hai vinto anche un argento e due bronzi mondiali e una Coppa del Mondo di specialità in slalom speciale. Sì, non so cosa pensavano gli altri, io mi sono allenato, mi sono preparato bene, chiaramente volevo tornare lì davanti e sono molto contento e soddisfatto di come sta andando al momento e chiaramente sì, ci ho creduto già dall'estate, avevo già buone sensazioni e poi arrivare adesso a Zagabria e vincere chiaramente sì, è un gran risultato. Senza contare poi il brutto infortunio di due anni fa, quando hai subito la rottura del tendine d'Achille destro. Sì, è stata, diciamo, veramente un infortunio grosso due anni fa e poi proprio lì a Zagabria ho fatto il mio rientro che ho veramente veloce dopo la rottura, due o tre mesi dopo, per quello arrivo due anni, l'anno scorso non l'ha fatta, quest'anno l'ha rifatta e arrivo proprio e vinco e è stata molto emozionante anche da quel punto di vista. Ogni tanto le cose vanno un po' così e sono belle queste storie. Ma come hai fatto a portare a termine quel recupero lampo? Ma è stato... intanto ho fatto un lavoro fantastico, la operazione è andata bene, poi chiaramente dopo 7-8 ore al giorno di fisioterapia l'abbiamo fatta per un mese veramente a tutta e sono riuscito a rientrare poi a dicembre, mi sentivo bene sugli sci e per quello ho deciso poi a rientrare a gennaio. È stata dura, l'ho anche pagata in gigante perché poi sono uscito e sono ripartito l'anno scorso con 60. Sì, però volevo questa sfida e sono contento che l'ho fatta perché ero convinto che dopo, prima o poi, qualcosa tornerà e così è. Ecco, invece sotto il profilo mentale come hai lavorato? Ma mentalmente sono uno che ci crede tanto, ci crede a poter tornare lì davanti dove sono stato una volta, o meglio credere, ho voglia di tornare lì. Per quello la voglia sicuramente mi spinge a allenarmi tanto, a più che altro neanche tanto arrivare a cercare certi risultati, però arrivare a sciare in una maniera che mi piace. E quello l'ho già sentito quest'estate, e poi quello mi dà la fiducia, mi dà mentalmente tanta forza, per quello dopo i risultati arrivano anche un po' da quello. Poi le gare, sicuramente un po' di esperienza anche, la fiducia anche delle ultime gare, tutto fa sì che al momento sto bene, mi sento bene, per quello arrivano anche certi successi. Nella tua preparazione fisica poi, da quel che so, c'è anche tanto spazio per un'altra tua grande passione, la bicicletta, giusto? Sì, la bicicletta, tutti mi conoscono, sanno che la bicicletta è una gran passione mia. L'anno scorso l'ho tolta un po' perché, o meglio, non più che da lato perché volevo provare qualcos'altro, ho fatto un grandissimo errore. Su quello quest'anno sono partito subito a fine stagione, già sono andato a Mallorca un po' con i ciclisti a fare la preparazione, ma non tanto per l'allenamento, anche per divertirmi, perché mi piace. I ciclisti sanno benissimo cosa vuol dire pedalare un po' in gruppo e essere un po' sfida con gli amici, è quello che mi dà una certa voglia di poi fare i nostri passi a casa, mi aiutano anche poi a spingere fino in fondo le gare. Parlando invece di cuore ed emozioni, direi che nel tuo motore un posto centrale ce l'ha la tua famiglia, tua sorella Manuela, azzurra con 11 podi in Coppa del Mondo, e tuo fratello Michael, che è anche il tuo skiman e con cui ormai formate una squadra affiatata e vincente. Ma sono tanti anni già in questo mondo, la Manuela sicuramente è stata un po' l'amica che ha fatto partire forse la vittoria a Zagreb, perché sono stato contentissimo per il suo podio, che se lo merita veramente, che lei ha tenuto duro e ha raggiunto questo gran risultato. E poi ci tiriamo un po' vicenda già da anni, si sa, e per quello è buono così, speriamo che continui così. E poi Miki, mio fratello, è da 7 anni mio skiman, è veramente un po' la mia ombra, come si può dire, tanto merito a questo momento che sto passando, perché mi ha lavorato tanto, sia sul materiale che anche come allenatore, si può dire, anche sempre lì che mi segue ogni giro che faccio durante tutta la stagione. Quello un grazie a lui. E il re di Zagabria, dall'Italia, Manfred Mell! Torniamo per un istante a Zagabria. Grande soddisfazione, immagino, trionfare proprio in occasione dei 50 anni della Coppa del Mondo. Sì, è stato veramente un giorno particolare. Uno già al posto, Zagabria, la gara in sé, poi 50 anni della Coppa del Mondo con tantissimi campioni lì. È veramente stato un onore, uno, far la gara e vincere, e due, anche lì con loro, far la foto, ricevere tanti complimenti, è stato veramente molto molto bello. Ecco, pensi che questa tua finora grandissima annata possa avere anche un effetto, diciamo così, trascinamento sul resto della squadra maschile? Ah, sì, credo comunque i ragazzi, cioè, forse c'è anche fisicamente qualche problemini, c'è Giuliano che sta rientrando, però anche lui sempre meglio, anche Gross, poi c'è Thaler, poi ci sono i giovani che hanno già dimostrato di fare delle buone cose, per quello anche Sabo Grossa ha già fatto il podio a Campiglio, siamo lì sia in battaglia sempre anche in allenamento, e per quello sono sicuro che sarà anche così poi in gara. Spero che, sono convinto che anche, diciamo, i risultati che stiamo facendo anche per loro siano bene e che possono andare al massimo. Vincendo a Zagabria, tra l'altro a 34 anni, hai strappato a tomba il primato del più anziano vincitore italiano in Coppa del Mondo. E so che sulla tua agenda c'è già segnato il prossimo appuntamento olimpico a Pyeongchang, in Corea del Sud, nel 2018. Del resto, nel palmarès, in effetti, una medaglia olimpica manca, eh? No, sicuramente, quella lì diciamo mi manca ancora un po', però ma è ancora lontano. Intanto ci abbiamo tante gare adesso davanti, ci sono i mondiali e poi le Olimpiadi, i mondiali, sempre gare particolari, si deve arrivare lì in quel giorno, proprio tutto deve essere perfetto e vedremo un po', quello sicuramente avremo ancora tempo di parlarne, però proverò sicuramente a lavorare al meglio e arrivare lì in una buona forma, è l'unica cosa che posso dire, poi ci sentiremo spero ancora il prossimo anno, vedremo un po'. Ecco, appunto, vediamo. Anche perché ormai invece manca davvero poco ai mondiali di St. Moritz. Immagino ti strappi un sorriso il fatto che gente come Hirscher e Christoffersen pensino a te con un po' di preoccupazione. Sì, può essere, non so come stanno preparando loro, ma comunque, ma certo, si sa, è un appuntamento molto importante, però come detto già prima, ci sono adesso ancora 3-4 gare storiche importantissime sul programma e poi ci sono loro due, ma ce ne sono anche altri, vi assicuro che poi San Moritz sicuramente possono dire la loro e vedremo un po'. Allora, intanto un grande in bocca al lupo e grazie Manfred Mölg per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, un piacere.